Quindi la good literature, cioè la buona letteratura, è nella mente dei lettori. Lui fa questa comparazione. Tra l'altro lui fa questo esempio dei classici che possono essere benissimo recensiti ma poco amati. E quindi lui dice, e questa è arte oppure no? Altra discussione su cui si sono cimentati in tanti. Mi ricordo un libro di Calvino su cos'è un classico. Ecco, secondo lui sono i readers that choose the classic. Cioè è classico ciò che viene straletto sostanzialmente. E che cosa viene straletto? Non soltanto ciò che è wonderfully reviewed, ciò che viene fantasticamente recensito, perché review è appunto recensire, e poi anche ciò che viene letto molto, many people read. Allora in questo caso questi due elementi, se un libro è wonderfully reviewed and very read, it has a better shot of being a classic. To have a better shot è avere una chance migliore. Shot letteralmente colpo, possibilità, quindi hai una possibilità in più. Readers have liked what I've written. Qui usa questa forma appunto, non semplicemente liked what I wrote, but have liked, quindi lungo un lungo periodo di tempo hanno continuato a piacere, hanno continuato ad apprezzare i suoi romanzi e lui ha continuato a scriverli, e quindi in that regard is good art. As simple as that. E chiudiamo con i nostri protagonisti del 2009 con un uomo che rappresenta l'innovazione, il presente, ma anche il futuro, Steve Jobs. Ma come nasce un uomo destinato a rivoluzionare la tecnologia? Lo ha raccontato lui stesso a un gruppo di studenti. Truth be told, I never graduated from college. This is the closest I've ever gotten to a college graduation. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates. So everything was all set, except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. This was the start in my life. Lui racconta lo start, l'inizio della sua vita. Io non lo sapevo. La sua storia familiare al momento della sua nascita è davvero complicata. Truth be told, comincia così. Noi diciamo a dire la verità, invece in inglese si dice praticamente verità essere detta. Quindi però la traduzione è quella. A dire la verità, I never graduated from college. To graduate from non vuol dire soltanto laurearsi, tant'è che appunto bisogna specificare from college, ma anche from high school, come lui dice dopo. Quindi passare, diciamo, l'esame per appunto di laurea. Quindi io non ho mai preso la laurea, e ora che sono qui a parlare in questo college, it's the closest I ever gotten to graduation. È il punto più vicino a cui sono arrivato a qualcosa di simile. È la cosa più simile a una laurea, diremmo in italiano, a cui io sia mai arrivato. I dropped out. To drop out, naturalmente drop sappiamo che vuol dire mollare, quindi mollare anche qualche cosa, ci cade qualcosa, ma to drop out, famoso phrasal verb, vuol dire lasciare, per esempio, il college, quindi uscire, mollare. Lui aveva una madre biologica che poi ha deciso di darlo in adozione. Ma cosa è successo? Perché lei era appunto una young, unwed, quindi non sposata, si può dire sia unwed che unwedded, graduate student, cioè era effettivamente una ragazza che studiava all'università, però non era sposata e quindi voleva darlo in adozione. To put up a baby for adoption, dare qualcuno in adozione. Però lei, she felt very strongly qualcosa, lei c'era qualcosa che lei voleva in maniera assolutamente netta. La cosa più importante era essere sicura che suo figlio avesse una education di secondo livello, quindi lei voleva che andasse al college, che prendesse questa laurea, quindi that he graduated from college. Soltanto che when Steven popped up, che vuol dire spuntare, naturalmente uscire dal grembo materno, i genitori che avevano chiesto l'adozione decided that they really wanted a girl, quindi lui non andava più bene. Cioè volevano a tutti i costi a un certo punto una ragazza. My parents, cioè i genitori che poi l'hanno adottato, erano on a waiting list. Waiting list, quindi lista d'attesa, leggermente diverso, appunto qui si usa il verbo in inglese, il gerundio del verbo, però la traduzione è quella, lista d'attesa, waiting list. E questi genitori erano diversi da quelli che erano stati scelti e che poi avevano preferito avere una girl. E erano la madre never graduated from college, e il padre never graduated from high school, quindi uno non aveva la laurea e l'altro non aveva nemmeno la maturità. E questo però la biological mother found out later. Cioè l'ha scoperto dopo e cosa è successo? E a quel punto, find out, altro phrasal verb, scoprire, quindi she refused to sign the final adoption papers. A quel punto si rifiutò di firmare, to sign, tutte le scartoffie burocratiche che sono parte di un'adozione. Salutiamo i grandi protagonisti del 2009 e vi facciamo ancora un grande augurio per il nuovo 2010. Vi ricordo anche il nostro appuntamento per tutto l'anno in edicola con English 24 da Marta Cagnola. E Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.